akasimudzana yepe ninaripo nevamwe vose varipo vachizviona varipo mwari vakasimudzana yepe ninaripo nevamwe vose varipo vachizviona varipo mwari vakasimudzana yepe ninaripo nevamwe vose varipo vachizviona varipo shamari feva ino uya na mari feva itengwe ne mari we feva itsvakwe kunanga feva iuye ne shamari feva ino uya na mari feva takaiwo takaiwo na baba takaiwo na baba na mari takaiwo na feva ichiuya na mari takauya na mari takaiwo takaiwo na baba Mari vakasimudzana yepe ninaripo nevamwe vose varipo vachizviona varipo mwari vakasimudzana yepe ninaripo nevamwe vose varipo vachizviona varipo madzikoma ake aripo nevamwe vose varipo vachizviona varipo tamita akauraya Goriati madzikoma ake aripo nevamwe vose varipo vachizviona varipo tafura vavengi vedu varipo nevamwe vose varipo vachizviona varipo mwari vanotipa tafura vavengi vedu varipo nevamwe vose varipo vachizviona varipo itengwe nemari feva itsvakwe kunanga feva iuye neshamari feva inouya namari feva itengwe nemari feva itsvakwe kunanga feva iuye neshamari feva inouya namari takaiwo Bye.